English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. In questa puntata ci trasferiamo in Africa perché andiamo alla scoperta di un concetto bellissimo al quale Giulia si è molto appassionata. Allora ha fatto un po' di ricerche e questa sera ascolteremo alcune voci che arrivano dall'Africa e dagli Stati Uniti, anche alcuni accenti talvolta un po' complessi da capire, ma è importante avvicinarsi anche a questi accenti, anche perché ci stiamo avvicinando ai mondiali di calcio, quindi ne sentiremo. Cominciamo subito già da questa settimana a trasferirci in Sudafrica. Andiamo a sentire uno dei grandi padri dell'Africa, uno degli uomini che hanno fatto la storia del Novecento e non solo, Nelson Mandela. In the old days when we were young, a traveler through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food. Entertaining. That is one aspect of Ubuntu. Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves. The question, therefore, is, are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve? These are the important things in life. And if one can do that, you have done something very important which will be appreciated. L'abbiamo detto, l'accento è un po' complesso. Parla Nelson Mandela di questo concetto straordinario che è l'Ubuntu. E cerca di spiegarlo e torna un po' indietro e dice: in the old days when I was young. Ovviamente Nelson Mandela, insomma, è ormai un vecchio signore, ma ancora perfettamente in grado di tenere queste interviste, fare queste interviste, però ricorda lui stesso: in the old days, quindi ai vecchi tempi, no? In inglese si dice non tanto old times quando parliamo della nostra esperienza di vita, ma old days, quindi nei vecchi tempi, when I was young, quando io ero giovane. E poi racconta... poi c'è questo aneddoto bellissimo, pieno di poesia, che davvero ci trasporta in un'epoca molto diversa dalla nostra e anche in un luogo molto diverso. Sì, proprio per spiegare questo Ubuntu, che poi appunto verrà dopo la parola Ubuntu, dice a traveler through our country, quindi un viaggiatore, naturalmente non un turista, ma un vero viaggiatore che attraversasse il nostro paese. E qui c'è molto, molto interessante l'uso del condizionale, would stop at a village, che non dobbiamo tradurre come se fosse un condizionale, cioè si fermerebbe al vostro villaggio, ma come se fosse l'uso di un passato. Nelson Mandela parla un inglese appunto con questo accento sudafricano molto forte, ma molto bello, molto forbito. Sapete che lui nei lunghissimi anni di prigione ha studiato di tutto, compreso l'inglese, quindi would stop at a village, si fermava, quindi non si fermerebbe, ma si fermava in un villaggio. Cosa succedeva? Questo viaggiatore si fermava in un villaggio e uno si può immaginare andava a chiedere qualcosa, invece no. Non ne aveva bisogno. He didn't have to ask for food or for water. To ask for, naturalmente, è chiedere di qualcosa, chiedere per ottenere, quindi didn't have to. Non aveva bisogno di chiedere cibo o water perché once he stopped, bastava che si fermasse, che avesse un'esitazione nel suo cammino di viaggiatore, di traveler, e people gave him food and attained to him. Quindi le persone non solo gli davano cibo, acqua, ma anche to attain somebody con l'uso dell'accusativo, quindi attained him, e lo intrattenevano, cioè lo circondavano per farlo sentire subito non semplicemente un viaggiatore che aveva bisogno di cibo, ma ben accolto, ben accetto, benvenuto nel villaggio. E questo è un aspetto dell'Ubuntu, questo ci fa capire cos'è questo spirito, e non è solo questo però, chiarisce Nelson Mandela. Sì, Ubuntu è veramente un... cercatelo su internet, è un concetto veramente affascinante. E sostanzialmente, riassunto nella frase, I am because you are, io sono perché tu sei, lo sentiremo dopo Desmond Tutu che lo spiega meglio. E però già Nelson Mandela dice Ubuntu does not mean that people should not address themselves. Ubuntu non significa che tu non ti devi interessare a te stesso, cioè to address oneself vuol dire fare attenzione ai propri bisogni, cioè capire quali sono i propri bisogni. The question is therefore, il punto è un altro. E qual è questo punto? Cerca di spiegarlo, non è facilissimo, perché è proprio impalpabile. Dice che in order to enable the community around you to improve, che in order to, quindi per far sì che, enable vuol dire rendere abili, no? Quindi permettere alla comunità che ti circonda di migliorarti, beh, devi farlo in questo modo, migliori anche tu. Quindi tu migliori perché la comunità intorno a te migliora, è uno scambio continuo e reciproco. Tu migliori, loro migliorano e così migliori anche tu. Una nuova voce sull'Ubuntu che stiamo per ascoltare, lo hai detto, è quella di Desmond Tutu, premio Nobel per la pace nel 1984, una definizione ancora più sorridente di questo Ubuntu. In our country we've got something called Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. This person has Ubuntu because in our culture there is no such thing as a solitary individual. We say a person is a person through other persons, that we belong in the bundle of life. And I want you to be all you can be, because the only way I can be all I can. I need you to be you so that I can be me. And that's why, you see, when you dehumanize another, whether you like it or not, inexorably you are yourself dehumanized. Straordinario l'arcivescovo Desmond Tutu nel suo quasi cantare, sì, l'Ubuntu, e anche ballare, perché lo vediamo dal video che abbiamo scovato su internet, dal quale abbiamo tratto quest'audio. Che è proprio poi una parola che si presta, no? Lui la ripete tante volte perché è quasi una canzone, questa parola Ubuntu. E poi spiega: nel nostro paese, in our country, we've got something called Ubuntu, e lo ripete più volte. Perché? Perché in our culture, quindi nella nostra cultura, there is no such thing as a solitary individual. Non esiste, there is no such thing, non esiste una cosa chiamata persona singola, individuo singolo. E voi sapete, insomma, Desmond Tutu è stato poi il fautore, l'ispiratore, insieme a Nelson Mandela, di tutto il processo di riconciliazione del Sudafrica, di cui secondo me non si parla mai abbastanza. E alla base c'era proprio questo, cioè che bisognava perdonare, perché sennò non si andava da nessuna parte. Lo abbiamo detto, la persona non è singola ed è sempre legata agli altri, è un tutt'uno. E qui sentite molto bello, tra l'altro Desmond Tutu parla un inglese veramente bellissimo, perfetto, però sentite anche questo accento, quindi we see a person is a person through other persons. Quindi una persona è una persona through other persons, attraverso altre persone. We belong in the bundle of life. Apparteniamo a questo bundle, cioè a questo gomitolo della vita. È un gomitolo, per definizione, appunto, è un tutt'uno, siamo tutti lì dentro, non c'è un pezzettino che esce. O meglio, se il pezzettino esce si spezza, e allora è peggio per tutto il gomitolo. Noi parliamo di altruismo, ma qua si va molto al di là dell'altruismo, perché io posso essere me stesso se tu puoi essere te stesso, altrimenti no. Ed è bello anche proprio come la semplicità delle parole, no? Lui dice I want you to be all you can be. Io voglio che tu sia tutto quello che tu puoi essere, perché is the only way that I can be all I can be. Perché è l'unico modo perché io sia tutto quello che posso essere. I need you to be you. Ho bisogno che tu sia te stesso so that I can be me, perché così io posso essere me stesso. E invece noi spesso ci deumanizziamo, non so come dirlo in italiano. Lui parla proprio di questo concetto del dehumanize another. Certo, perché se lo si vede in positivo, appunto, di lasciare che gli altri si esprimano i loro talenti, così che la cosa comunque fa bene anche a me, anche solo da spettatore, esiste anche il contrario. Cioè, se c'è invece, se assistiamo a un processo di dehumanization di una qualsiasi persona, whether you like it or not, che ti piaccia o no, che tu lo voglia capire o no, inesorabilmente, you are yourself dehumanized. Ma solo in Sudafrica si parla di Ubuntu, solo i sudafricani conoscono l'Ubuntu, lo conosce anche un americano molto famoso, è stato presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. When we finished sequencing the human genome, we discovered the astonishing fact that genetically every breathing human being on the planet is more than 99.9% the same. You think about how much of your life, your own life, is organized around that 0.1%. You had better grades than somebody else. You're better looking than somebody else. We're arrogant enough to think that those of us that have a lot of money are so much better than that poor girl that's going up into that village in Lesotho trying to get people to get tested for AIDS. You think about it. All of us, we organize more than 90% of our lives, our thoughts, our energies, our self-image. We all do it around that 0.1%. So Ubuntu, for us it means the world is too small, our wisdom too limited, our time here too short to waste any more of it in winning fleeting victories at other people's expense. We have to now find a way to triumph together. Ci proviamo noi del mondo cosiddetto occidentale a capire cos'è l'Ubuntu. Ci sta provando Bill Clinton e lo fa anche con un esempio scientifico. Sì, la prende diciamo dal lato tecnologico. È interessante come usa il pluralis majestatis, perché dice "When we finished sequencing the human genome", ovviamente non è stato lui a finire la sequenziazione del genoma umano, cioè quella famosa mappatura del DNA, però insomma la prende come, diciamo, che si sente parte del pool di scienziati che ha fatto questa cosa. E poi dice "We discovered an astonishing fact". Astonishing naturalmente è una cosa sconvolgente, questo fatto sconvolgente. E cioè che, che sorpresa, siamo sostanzialmente tutti identici. Insomma, già sapevamo che eravamo molto simili agli scimpanzé, però se ci prendiamo tra breeding human being on the planet, cioè gli esseri umani on the planet, we are more than 99.99 the same. Cioè il nostro DNA, il mio e il tuo, Marta, siamo praticamente uguale, c'è quello 0,1%. Anche se tu sei bionda, io sono mora, siamo identiche. E allora cosa porta tutto questo a Bill Clinton? Qual è la considerazione alla quale lui arriva? Insomma, lui cerca di dire appunto, ci sentiamo spesso così diversi dagli altri, però ragioniamo su questo fatto che our lives are organized around that 0.1%, cioè quel decimo di un punto percentuale è quello che fa tutta la differenza. Cioè noi ci sentiamo così diversi, però in realtà siamo diversi solo per quello. Quindi if we have better grades sono i voti, than somebody, better looks, cioè abbiamo un aspetto migliore. Attenzione qua appunto all'uso al plurale di looks, perché il look lo sappiamo, l'abbiamo sentito nella moda, appunto il come ci si veste in un dato momento, ma il looks è proprio l'aspetto, quindi anche la bellezza, il naso, i capelli, le gambe corte o lunghe. Quindi quell'un decimo di punto percentuale è quello che fa tutte queste differenze, che ci fa sentire così spesso superiori a qualcun altro. Come ad esempio a questa ragazza che lui immagina e che lui inserisce nel suo discorso, questa ragazza africana, ci fa capire che la nostra saggezza, il nostro modo di pensare in realtà è limitatissimo, e anche qui ci porta a delle considerazioni generali che non si possono non condividere. E quindi fa suo il concetto di Ubuntu, anche se mi sarebbe piaciuto sentire se Desmond Tutu era proprio d'accordo. Comunque va bene che ne parli anche lui, quindi lui dice Ubuntu for us, per noi, it means the world is too small, questo possiamo essere d'accordo, quindi il mondo è troppo piccolo. Our wisdom is too limited. Wisdom è la ragionevolezza, la saggezza, quindi sappiamo poche cose o comunque le sappiamo male, le elaboriamo male. And our time here is too short. E comunque siamo veramente solo di passaggio, abbiamo poco tempo per fare una differenza nel bene o nel male. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostanzialmente metterci d'accordo. Sì, Bill Clinton, insomma, adesso non ricordo dove ha fatto questa speech, ma lui è specialista poi nel cercare di fare grandi proclami. E dice quindi we now have to find a way, quindi sempre we, tutti quanti insieme, lui e tutti noi possibilmente, dobbiamo have to find a way, dobbiamo trovare un modo to triumph together, per trionfare insieme, suppongo, su non trionfare in generale, ma sulla povertà, su appunto battaglie come quella contro l'AIDS di cui parlava prima. Il nostro tempo è di passaggio e questo lo sappiamo tutti. Per questa volta abbiamo anche finito il nostro tempo radiofonico e quello è veramente brevissimo. Allora io vi do appuntamento con English 24 in edicola, e questo lo sappiamo. Devo ringraziare Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Un saluto e alla prossima settimana.